l'associazione Bologna Musei è la cornice istituzionale che riunisce tutti i musei civici del comune di Bologna, che appunto si articolano in 14 sedi espositive museali racchiuse in 6 aree tematiche che spaziano dall'archeologia col museo civico archeologico all'arte antica, museo civico medievale, collezioni comunali d'arte, museo della Bargellini, l'area arte moderna e contemporanea con il Mambo, il museo Morandi, Casa Morandi, il museo per la memoria di Ustica, l'area musica con il museo internazionale biblioteca della musica di Bologna, l'area storia e memoria con museo e biblioteca del risorgimento, il cimitero monumentale della Certosa e il patrimonio industriale e cultura tecnica con il museo del patrimonio industriale. Come si può ben intendere dalle aree che vi ho appena raccontato, i musei delle istituzioni conservano, studiano e valorizzano un ricchissimo patrimonio che va dall'antichità fino alla contemporaneità e quindi sono in grado di raccontare e documentare l'intera storia di Bologna e del suo territorio, fin dagli insediamenti preistorici alle dinamiche artistiche e culturali della nostra società contemporanea. Nel perseguimento appunto di queste finalità, quindi con l'obiettivo di riuscire a raggiungere più persone possibili, i servizi educativi sono per noi un fattore strategico, proprio per avvicinare tutte le tipologie di pubblico al nostro patrimonio che va appunto dall'archeologia alla storia, alla scienza fino all'arte contemporanea. Un'attenzione particolare è da noi rivolta alle scuole. L'istituzione rivolge un ricco catalogo di attività alle scuole di ogni ordine e grado, che vanno dal nido alla secondaria di secondo grado, con un ampio ventaglio di attività che sono o visite guidate, animate, alle collezioni permanenti o alle mostre temporanee, ma anche laboratori didattici a carattere artistico, come può avvenire al Mambo, a carattere scientifico e tecnologico al Museo del Patrimonio Industriale, fino a laboratori teatrali, per esempio al Museo Archeologico. Quali sono le modalità di fruizione dei percorsi museali che proponete ad oggi? Beh, quest'anno l'avvio è stato particolarmente complicato, sia per il mondo della scuola che per i musei. Fin da settembre era stato chiaro che per le scuole sarebbe stato difficile e poi diventato impossibile effettuare uscite didattiche, poi i musei sono stati subito dopo chiusi, quindi abbiamo pensato fin da subito di formulare un'offerta formativa molto flessibile, anche reduce dell'esperienza del primo lockdown, quello della scorsa primavera, dove avevamo già avuto modo di sperimentare nuove modalità di fruizione per dare modo alle scuole di attivarle anche in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto. Quindi abbiamo fin da subito composto un'offerta formativa che includesse anche la possibilità di svolgere attività presso le scuole con i nostri educatori museali. Per le classi invece che hanno attivato la didattica a distanza o dove non è possibile l'accesso degli educatori a scuola, offriamo la possibilità di integrare la didattica scolastica con nostre attività a distanza, sempre condotte dai nostri educatori museali, anche a supporto delle materie di studio, come possono essere le arti visive, la storia, ma anche le scienze, la musica e l'educazione civica. In più, grazie ad un progetto finanziato dal programma PoMetro 2014-20, l'istituzione Bologna Musei offre gratuitamente una quota di attività didattiche alle scuole del comune di Bologna e dell'area metropolitana. Il requisito per partecipare e per richiedere la gratuità è la presentazione da parte dell'insegnante di un progetto didattico che usi il patrimonio culturale come mezzo di integrazione e inclusione sociale o di contrasto alle povertà educative. Ci sono anche delle modalità di percorsi personalizzati e delle attività extracurricolari previste? Sì, certo, siamo molto attenti alle esigenze degli insegnanti e i nostri servizi educativi insomma cercano di raccogliere tutte le richieste specifiche delle singole classi. Gli insegnanti possono prendere contatto diretto con i referenti dei servizi educativi di ciascun museo e concordare appunto con loro e con gli operatori di segreteria le proprie modalità di fruizione e anche sviluppare percorsi personalizzati anche intermuseali. Ecco, alla base un po' di questo approccio è il desiderio di costruire un po' un contesto educativo allargato che consideri la visita al museo come una delle tappe di un percorso di apprendimento un po' più ampio, capace di sollecitare non solo l'attività ma anche il pensiero aspetto critico e quindi suggerire collegamenti dentro ai musei, fuori dai musei, fra le epoche passate e anche la nostra realtà contemporanea. Quindi non concentrandosi solo sull'oggetto musealizzato, che chiaramente è al centro delle nostre attività, o sull'opera d'arte, ma estendendo questa riflessione anche alla nostra identità e insomma anche al nostro vivere nella contemporaneità. In questo periodo di emergenza sanitaria, quanto è importante per voi l'utilizzo del patrimonio culturale come mezzo di integrazione e inclusione sociale? Beh, per noi è molto importante. Il tema dell'inclusione l'abbiamo anche affrontato negli scorsi anni, anche grazie a una sinergia con l'associazione Accaparlanti, in un progetto che si chiamava Cultura Libera Tutti, che va proprio al centro l'accessibilità culturale. A maggior ragione in questo momento di emergenza sanitaria, ma poter offrire una possibilità di accedere alla cultura anche a chi non ne ha grandi possibilità è per noi molto importante. Per questo che pensiamo che poter offrire al mondo della scuola dei percorsi museali di qualità realizzati da operatori museali specializzati possa offrire un'opportunità culturale a tutti gli studenti, anche a quelli che non ne avrebbero la possibilità di accedere. E nella convinzione che l'incontro con il museo, anche se viene a scuola a distanza, possa comunque essere un'esperienza stimolante.